252. Pizza a libretti. Una signora mi scrive: voglio insegnarle come mi ero proposta una buona ed elegante pizza fritta, ma guai a lei se la chiamerà stiacciata, perché deve riuscire tutt'altro. La chiami pizza a libretti e sarà nel vero. In obbedienza all'ordine della signora, avendo fatto due prove di questa pizza a libretti, che sono riuscite bene, ve la descrivo. Tirate una sfoglia non troppo soda e quanto più potrete sottile, intridendo la farina con due uova, un pizzico di sale e tre cucchiaiate di cognac o di spirito, e forse meglio di fumetto. Fatta la sfoglia, ungetela con grammi 20 di burro sciolto e arrotolatela, ossia piegatela sopra se stessa alla larghezza di 10 a 11 centimetri, ma che la parte unta resti all'interno, indi tagliate il rotolo a metà per la sua lunghezza e poi per traverso a proporzionate distanze, onde ottenere tanti rettangoli. E a questi pigiate con le dita l'orlo esterno, ossia la costola, che non è stata tagliata. Friggeteli in padella con molto unto e prima di servirli spolverizzateli di zucchero a velo. Se vengono bene, vedrete che questi libretti si aprono e restano sfogliati. Questa dose potrà bastare per 4 persone.